Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Lei è una delle scrittrici straniere più amate in Italia. Ogni volta che esce un suo romanzo, diciamo che arriva sempre ai primi posti delle classifiche dei libri più venduti nel nostro paese. Vi faccio giusto un titolo, così per capirci: Il profumo delle foglie di limone, che da noi ha venduto quasi 1 milione di copie. Stiamo parlando di Clara Sánchez, scrittrice spagnola, che è tornata nuovamente in libreria con un nuovo romanzo che si intitola Le mille luci del mattino, pubblicato da Garzanti. Protagonista di questo romanzo è una donna, 35enne, Emma, che diciamo esce fuori da una storia d'amore poco felice e decide anche di cambiare lavoro e va a fare l'assistente del vicepresidente di una grande azienda a Madrid. E attraverso gli occhi, lo sguardo, i sentimenti di Emma scopriremo tutta una serie di vicende che si svolgono all'interno di questa azienda e di questo ufficio: lotte di potere, tradimenti e così via. Clara, come hai pensato a questa Emma? Come ti è venuta in mente l'idea di raccontare una storia di una donna all'interno di un ufficio? Bueno, he pensado básicamente en mí. En mí y en las personas que he conocido a lo largo de mi vida. Diciamo che ho pensato soprattutto a me stessa per il personaggio di Emma e alle persone che ho incontrato nel corso della mia vita, perché laddove le ho capite meglio, dove sono riuscita a comprenderle meglio, è stato proprio attraverso il lavoro, attraverso quel contatto, quel rapporto interpersonale che si crea in un ufficio, in un posto di lavoro. Ricordo ancora la prima volta che sono entrata nella mia prima torre di vetro, quindi possiamo capire che Emma è molto me in questo caso, in questa circostanza. Per me è stato come atterrare su un pianeta sconosciuto, un mondo completamente nuovo, un mondo però già costruito da qualcun altro, già configurato, che per me era completamente estraneo. E quindi sono stata immediatamente invasa da quella sensazione scomoda, spiacevole, di necessità di adattamento a tutto ciò che per me era nuovo, dalla scrivania alla sedia, ma soprattutto ai colleghi, ai miei capi, e alla necessità anche di essere amata, ben voluta da loro per costruire, andare avanti nella mia vita e sopravvivere. Comunque più avanti mi sono resa conto che questo tipo di sensazione non appartiene solamente al mondo del lavoro. Infatti è un sentimento, è una sensazione che io ho provato tante altre volte nella vita, quando siamo confrontati con dei grandi cambiamenti, quindi con la necessità di adattarci. Penso per esempio a un divorzio, o quando perdiamo una persona cara dobbiamo adattarci alla sua assenza, o quando abbiamo dei figli che sconvolgono completamente la nostra vita. Quindi questa sensazione di scomodità, di disagio, io l'ho sempre sentita come una prova a cui la vita ogni tanto ci sottopone. A prova costantemente, tienes que ir readattandote. E infatti in questo romanzo Clara Sánchez, nella traduzione in italiano di Enrica Budetta, scrive: «Non c'è nessun altro posto come il luogo di lavoro per conoscere se stessi, né altro posto dove i difetti degli altri crescano come fiori giganti». Insomma, l'ufficio è un microcosmo in cui si sviluppano invidie, gelosie, ma anche affetti, tradimenti e sentimenti di tutte, diciamo, le sfumature possibili. Emma inizialmente fa l'assistente del vicepresidente di questa azienda, Sebastian, che è messo da parte, diciamo, dalla sua stessa azienda. Di fatto non ha alcun potere. E lo dice chiaramente ad Emma, dice: io non ho alcun potere, è per questo che non facciamo niente tutto il giorno. A quel punto Emma ha un'idea per iniziare a fare qualcosa. Che cosa decide di fare? Bueno, ella, claro, tienen que darle contenido a su trabajo. Yo he conocido muchas situaciones de estas, ¿no? En que, bueno, te dan una mesa, te dan una silla, te dan un lugar, ¿no? Un trozo de moqueta. Diciamo che Emma ha bisogno di dare un contenuto al suo lavoro, al suo posto di lavoro. Ho visto tante volte questa situazione dove abbiamo una scrivania, abbiamo una sedia e tutto quanto ci serve, ma non abbiamo niente da fare. Ed è per questa ragione che Emma comincia a rivedere i verbali dei consigli di amministrazione, a fotocopiare, chiamarli a fare l'archivio, insomma vuole organizzare l'ufficio ed è qui che nasce il problema, quando gli altri si chiedono perché sta facendo tutte queste cose, perché sanno benissimo che sarebbe tutto inutile, quindi si immaginano chissà quali recondite intenzioni da parte sua, quindi la guardano con una certa diffidenza, sanno che in realtà tutto ciò è inutile, quindi si chiedono perché lo fa e si autorispondono se lo fa è che avrà in mente qualche cosa, perché questo è quello che succede a noi esseri umani, proiettiamo le nostre paure, i nostri timori sui gesti, sulle azioni degli altri ed è ciò che succede a tutte le persone intorno ad Emma che vedono le sue azioni con vero e proprio terrore e effettivamente poco a poco Emma scoprirà delle cose interessanti con autentico terror perché realmente è che Emma va a scoprire algo. Scoprirà delle cose interessanti che naturalmente non possiamo svelare, insomma, perché altrimenti vi togliamo il gusto della lettura di questo romanzo di Clara Sanchez. Quello che possiamo dire però è che Emma è sicuramente una donna che ha uno sguardo buono nei confronti delle altre persone. Per esempio è molto comprensiva, molto materna nei confronti del suo capo Sebastian, soffre quando lui viene fatto fuori professionalmente, ma anche nel momento in cui viene sostituito da altri due, diciamo, manager rampanti, giovani, i fratelli Dorado, inizialmente insomma li vede male, però alla fine finisce per affezionarsi anche a loro e ad avere anche una certa compassione nei loro confronti. Insomma, Emma è una buona. Io credo che sì, che Emma, soprattutto, sta approfittando l'opportunità che le dà la vita. Ma credo di sì, che sia una persona fondamentalmente buona, ma credo che Emma sia soprattutto una persona che sta approfittando dell'occasione che la vita le offre di capire gli altri, di capire perché sono come sono, di capire com'è fatta in fondo la natura umana. Per me è stato divertente ed è stato molto piacevole creare i personaggi di Sebastian Trenas e dei fratelli Dorado, perché rappresentano due epoche che si oppongono e che entrano in conflitto fra di loro. Sebastian Trenas è il manager, il direttore della cosiddetta vecchia guardia, con le scarpe sempre lucide a posto, il vestito gessato, elegantissimo. Invece i fratelli Dorado sono questi giovani manager rampanti che vengono in ufficio con i jeans, la maglietta, le scarpe da tennis lacere, ma costosissime, e sono coloro che hanno spazzato via, per così dire, il mondo dei Sebastian Trenas. Io ho incontrato entrambe queste tipologie di persone, i messi da parte, i silurati come Sebastian Trenas e anche questi giovani manager rampanti che credo che abbiano rappresentato un punto di inflessione importantissimo nella nostra società. Personalmente sento un particolare affetto per Sebastian Trenas perché è colui che in Spagna noi diciamo ha ricevuto un calcio verso l'alto, è stato messo in una posizione di prestigio ma dove non conta nulla in modo che non possa fare danno, ma lui è un uomo innamoratissimo della moglie Nieves di cui vuole disperatamente conservare l'ammirazione e quindi finge una vita professionale che non ha più proprio per non deluderla. In questo romanzo, l'avrete capito, insomma, ci sono complotti professionali, lavorativi, ci sono tradimenti anche poi sentimentali, senza svelare troppo, insomma, diciamo che ci sono degli intrecci a questo proposito. Tra l'altro Sebastian viene fatto fuori professionalmente da Emilio Rios, che era praticamente il suo amico da ragazzo, insomma, che è il presidente della società, quindi anche qui tradimento nel campo dell'amicizia. Nei tuoi romanzi, Clara, spesso le persone non sono come sembrano, cioè l'apparenza inganna, diremmo noi in Italia. Mi riferisco al Profumo delle foglie di limone, ma anche Entra nella mia vita, per esempio, dove le due ragazze non sapevano di avere un legame fra loro. Insomma, sì. Si scopre tutto lentamente. Costruisci un po' i tuoi romanzi come se fossero quasi dei gialli, si scoprono lentamente come delle scatole cinesi. Anche in questo caso hai utilizzato questa tecnica e perché ti è così caro il tema del non è come sembra? Sì, perché así es como yo veo la vida, así es como veo a las personas y como Credo che mi ven a me. Perché è così che io vedo la vita, è così che io vedo le altre persone ed è così che credo di essere vista dagli altri. Con questo non voglio dire che mentiamo costantemente, cosa che comunque facciamo con una certa frequenza nel corso della giornata, ma più che altro perché noi vorremmo che le persone fossero in un certo modo e cerchiamo di vederle in quel modo. Quando ci rendiamo conto che così non è, è dove nasce la grandissima delusione. Poi per quanto mi riguarda, nei miei libri io cerco di creare un po' questa atmosfera da thriller, da giallo, dove si va alla ricerca di una verità psicologica nascosta nella mente, nascosta nelle intenzioni dei personaggi. E poi ci sono sempre questi personaggi che hanno la necessità di adattarsi a delle nuove situazioni, a delle nuove circostanze, a una nuova vita, e dei personaggi che vanno alla ricerca della lucidità. E tutti insieme stanno sempre cercando di capire come sono in realtà gli altri. Le mille luci del mattino, todos están tratando de ver cómo son los demás. Prima dicevi che Emma vuole soprattutto cercare di capire gli altri, a capire cosa pensano, come si muovono nella vita. Clara Sanchez, come scrittrice, si sente un'acuta osservatrice dell'animo umano? Scherzando, a volte dico che gli scrittori sono i ladri delle vite degli altri, insomma. Tu quanto carpisci alla vita di chi ti sta intorno? Bueno, siempre he sido muy, me ha encantado, ¿no? Mirar a las personas, más que observarlas. A me è sempre piaciuto tantissimo, più che osservare le persone, guardarle, guardare dentro i loro occhi, perché penso che ognuno di noi abbia qualcosa di bellissimo o comunque qualcosa di interessante nello sguardo. Quindi più che una vera e propria ladra di vite, forse mi considero una ladra di sguardi o di sorrisi. E poi quello che mi piace fare è domandarmi, una volta che ho guardato lungamente le persone, ho cercato di capirle, che cos'è che non mi raccontano, che cosa questa persona non mi dice, mi chiedo. Ed è un po' quello che succede ad Emma nelle mille luci del mattino, perché lei va raccogliendo le confidenze di tante persone, va raccogliendo notizie, informazioni qua e là, e va intessendo un mosaico sulle loro vite. Su propria vita e ella va tejiendo, digamos, ese mundo de todos ellos. C'è un passo di questo romanzo dove Emma fa una riflessione e considera un po' il desiderio come il motore dei dolori umani, perché fa una riflessione con una sua amica collega e pensa: è meglio proseguire sulla linea di non desiderare niente. Se non c'è desiderio, non c'è frustrazione né amarezza. Non solo perché il proprio desiderio non si realizza, ma anche perché spesso si deve sopportare di vedere che si realizza per tutti gli altri, e questo risulta ancora più crudele. Questa visione, come dire, un po' rassegnata della vita, del desiderio e dei piaceri della vita, è una visione solo di Emma o Clara Sanchez la condivide? Sì, è una visione mia. Una delle visioni che tengo sobre il mondo del deseo. Diciamo che è abbastanza la mia visione, o per meglio dire una delle visioni che io ho del desiderio. Quando parlo di desiderio non mi riferisco solamente al desiderio erotico o sessuale. Il desiderio mi interessa in tutte le sue sfaccettature, perché penso che il desiderio sia il motore della vita, è ciò che ci fa partire al mattino con un certo tipo di entusiasmo o un certo tipo di disinteresse. Però bisogna fare molta attenzione al desiderio, perché a volte lo vedo come un missile terra-aria che perde l'orientamento e colpisce, per così dire, il bersaglio sbagliato. Forse può sembrare una sciocchezza, ma io ho la sensazione che quando nella vita ho desiderato qualcosa con estrema intensità, questo qualcosa si è poi realizzato, ma ha beccato un altro bersaglio, laddove volevo essere io invece il bersaglio in questione. E quindi bisogna fare estrema attenzione, perché se per esempio ho desiderato con tanta intensità un premio, magari questo è caduto su un altro scrittore, o ho desiderato di vincere, la vincita è andata ad un amico. E tutto ciò ha avuto inizio quando andavo a scuola e era seduto davanti a me, dandomi la schiena, un ragazzino che mi piaceva tantissimo. Allora io desideravo con estrema forza e speravo che un giorno si girasse e mi guardasse, ed un giorno è successo, si è girato ma ha guardato la bambina che stava seduta accanto a me. E questo è successo poi tante altre volte nella vita, in tanti ambiti diversi, e ciò che è successo a me l'ho trasferito in Emma. E esa situazione, digamos, che si è ripetuto varias veces in mia vita, e l'ho puesto ahí, además se l'ho colocato. Sì, però Clara Sánchez, insomma, è una scrittrice di successo, non solo in Spagna, l'abbiamo già detto, anche in Italia e in altri paesi del mondo. È l'unica scrittrice spagnola ad aver vinto i 3 premi letterari più importanti in Spagna. Insomma, sembra che tu abbia raggiunto i tuoi desideri, abbia realizzato i tuoi desideri, o non è così? Sì, è il mio, però sì, è così, però forse in questo caso qualcun altro ha desiderato con estrema intensità quei primi letterari e ha sviato il missile che ha colpito me. Grazie a Clara Sánchez, ora in libreria in Italia con Le mille luci del mattino, pubblicato come gli altri suoi romanzi da Garzanti. Vi ricordo che questo libro è stato tradotto da Enrica Budetta, mentre la traduzione per la nostra intervista era di Rossana Ottolini. E ora parliamo del premio Strega. Beh, se ne è parlato tantissimo in questa settimana perché sono cambiati i regolamenti del premio Strega, perché c'è stata la candidatura di Elena Ferrante, la famosa scrittrice misteriosa, dall'identità misteriosa. Quindi, insomma, anche noi parliamo e dedichiamo grande spazio del Cacciatore di Libri al premio Strega, che è il premio letterario italiano più prestigioso, quello al quale ambiscono un po' tutti gli scrittori, tutti gli editori, perché è quello che riesce a moltiplicare le vendite dei libri di un numero notevole, ma poi ne parleremo anche nel dettaglio. E ne parliamo con Stefano Petrocchi, che è il direttore della Fondazione Bellonci, che poi è quella che organizza il premio Strega. Allora Petrocchi, facciamo un po' di ordine in tutto quello che è successo e che succederà sul premio Strega, per chi non è addetto ai lavori. Allora, sappiamo che i giurati del premio Strega vengono chiamati Amici della Domenica. Ogni libro deve essere presentato da almeno 2 Amici della Domenica, che dicono, esatto, ok, questo libro ci piace perché, e ne spiegano le motivazioni. Poi che cosa succede? Che c'è una rosa naturalmente di nominativi, fra i quali voi, diciamo del premio Strega, selezionate 12 candidati, esatto, 12 libri candidati. Poi a metà giugno, lo spieghiamo appunto sempre per i non addetti ai lavori, c'è la prima votazione. Gli Amici della Domenica fino adesso votavano per un solo libro e da questi 12 ne uscivano dunque 5, la famosa cinquina del premio Strega. Questa settimana avete cambiato le regole. In che modo? Chiederemo agli Amici della Domenica di votare nella prima votazione non solo un libro, ma 3. Quindi ci saranno più preferenze necessarie per entrare nella cinquina e si potranno innescare, forse, speriamo, dei meccanismi imprevedibili di selezione dei finalisti. E lo abbiamo fatto perché vogliamo dare più opportunità agli Amici della Domenica di dirci come la immaginano questa cinquina. Non abbiamo detto loro di indicare 5 libri, ma soltanto 3. Però avremo, crediamo, un giudizio più attendibile rispetto appunto a quelli che sono i gusti degli Amici della Domenica. E questa è una soltanto, naturalmente, delle 2 importanti innovazioni che il comitato direttivo ha portato al regolamento del premio. Allora, prima di andare sulla seconda novità, mi fermerei ancora su questa, perché è fondamentale. Insomma, negli ultimi anni ci sono state tante polemiche, vincono sempre i grandi gruppi. Negli ultimi 10 anni ci sono state vittorie più o meno alternate del gruppo Mondadori, di cui fa parte per esempio la casa editrice Einaudi, o del gruppo Rizzoli, di cui fa parte Bompiani, e così via. E comunque anche in cinquina tendevano ad entrare soprattutto i grandi gruppi, le grandi case editrice. In questo modo si potrà avere, come dire, anche più imprevedibilità, perché c'era anche tutto il discorso delle cosiddette pressioni telefonate che i grandi gruppi editoriali farebbero, o comunque fanno, insomma, lo sappiamo, agli Amici della Domenica. Questo poter votare 3 libri invece di uno solo spariglierà un po' le carte? Ma dunque, se immaginiamo che ci siano dei votanti che abbiano un editore di riferimento, qualcuno che votano ogni anno in modo preferenziale rispetto agli altri, noi abbiamo voluto dare anche a loro la libertà di esprimere anche un secondo voto per un altro libro. Questo immaginiamo che possa, sì, un po' sparigliare i giochi. In effetti quello che abbiamo visto negli ultimi anni è che non tanto c'erano sempre gli stessi editori nella cinquina dei finalisti, questo sì, ma che tendevano a, come dire, a entrare nella finale del premio con un numero di voti abbastanza analogo. Ecco, ci è sembrato di vedere una situazione un po' più rigida che abbiamo voluto in qualche modo sconvolgere. Cioè, come se gli stessi amici, non so, gli stessi 50 Amici della Domenica ogni anno tendevano a votare per lo stesso editore, più o meno. Più o meno sì, ecco, diciamo, qualcosa del genere. Naturalmente non è detto che il risultato numerico sarà sicuramente diverso perché, come dire, triplicano il numero di voti che si possono dare. Però, ecco, non è detto che ci sarà un risultato diverso, ma c'è una possibilità in più. Ed è su questa che abbiamo puntato. Sicuramente ci sarà molta più suspense nell'appuntamento, diciamo, di metà giugno, quello della prima votazione, perché mentre fino adesso più o meno la cinquina, gli addetti ai lavori, la azzeccavano quasi sempre, adesso votando per tre libri ci potranno essere, insomma, delle novità. E veniamo alla seconda novità che avete introdotto, cioè quella che permetterà anche ai piccoli e medi editori di poter entrare in cinquina. In che modo? Dunque, non è che prima non potessero entrare. Di nuovo qui abbiamo visto l'andamento degli ultimi anni delle votazioni e abbiamo notato che negli ultimi tre anni questo segmento importante del mercato editoriale, che assomma il 40% delle quote di mercato, appunto, tendeva a restare fuori dalla cinquina e a restare fuori di poco. Tenerli fuori così spesso dalla finale del premio ci è sembrato davvero un peccato. Posso fare degli esempi. L'anno scorso Elisa Ruotolo, pubblicata la Nottetempo, è arrivata sesta con due voti di differenza rispetto alla quinta classificata che è entrata in finale. Qualche anno fa Giorgio Vasta, pubblicato da Minimum Fax, ha avuto più o meno la stessa sorte. Insomma, abbiamo allargato un po' le maglie della cinquina per far sì che la piccola e media editoria italiana fosse comunque rappresentata nella finale del premio. Nella cinquina non c'è nessun editore medio piccolo, diciamo così, viene ripescato il primo libro di un editore medio piccolo fra i più votati, giusto? Esatto, quello che ha ottenuto il maggior numero, quello che, essendo stato escluso dalla cinquina dei finalisti, ha comunque ottenuto il maggior numero. E quindi di ci può essere una finale a 6, per esempio, esatto. Non a 5. Sì, fermo restando che se il piccolo medio editore entrasse fra i primi 5, questa clausola di salvaguardia non si applicherebbe e rimarrebbe una finale a 5. Ma veniamo al caso spinosissimo della settimana di Elena Ferrante, la scrittrice dell'identità misteriosa. Riepiloghiamo un po' la vicenda. Roberto Saviano ha pubblicamente, è uno degli amici della Domenica, quindi uno degli giurati, e Serena Dandini hanno espresso l'intenzione di candidare l'ultimo romanzo di Elena Ferrante della tetralogia dell'Amica Geniale al premio Perfetto. Strega. C'è stata una lettera, l'unica vera lettera autentica di Elena Ferrante, perché poi ogni giorno i giornali ne tirano fuori, ma non sono reali, come ha detto diverse volte la casa editrice E.O. Quindi l'unica lettera vera è quella che è stata pubblicata da Repubblica martedì 24 febbraio. Una lettera aperta in cui di fatto Elena Ferrante accetta la candidatura, nel senso che dice i libri possono andare ovunque vogliano i lettori, vadano intanto a tutti i premi d'Italia, non ho preclusioni e nemmeno ansie, sono candidati loro, cioè i libri, io sicuramente no. Quindi è stata un'accettazione, diciamo così, virtuale, però sappiamo che è necessario che lo scrittore certifichi proprio, ecco, la sua accettazione alla candidatura dello Strega. In questo caso, visto che l'identità è misteriosa, che cosa succederà? È già successo, per la verità, è successo che noi abbiamo accettato la conferma della candidatura, quindi la lettera di accettazione dell'editore E.O. Fermo restando che al centro di questo nodo c'è il libro di Elena Ferrante, non tanto l'autrice. In sostanza abbiamo voluto rispettare la scelta dell'anonimato totale dell'autrice, mettendo al centro proprio la faccenda che in fondo un premio letterario va a un libro, anzi non tanto in fondo, nel primo articolo del regolamento del premio Strega c'è scritto che il premio viene assegnato a un libro, non all'autore. Quindi insomma non sarà necessaria la firma di accettazione di Elena Ferrante, basta l'impegno dell'editore della E.O. Beh, la scelta dell'anonimato di Elena Ferrante è nota non da oggi e non da oggi per le comunicazioni che la riguardano, come sanno chiunque ha sottoposto loro una richiesta di intervista, si passa per l'editore. Quindi insomma Elena Ferrante, il libro di Elena Ferrante è ufficialmente candidato a questa edizione dello Strega. Ebbene sì. Ma tra l'altro Stefano Petrocchi ha pubblicato poco tempo fa con Mondadori un romanzo che si intitola La polveriera. Non è un titolo a caso, perché racconta proprio la storia, la sua esperienza personale, proprio inside, dietro le quinte del premio Strega. Allora chiariamo innanzitutto agli ascoltatori perché si intitola La polveriera. Di chi era questa definizione del premio Strega? Era di una che la sapeva lunga sul premio, era della sua fondatrice, che Maria Bellonci scrisse quasi subito, ha avuto la percezione chiara di aver architettato una polveriera. E naturalmente questa realtà, diciamo, questa polveriera del premio Strega è così in questi termini fin dalla nascita di questa istituzione ormai nel 1947. Quando è uscito il mio libro naturalmente non avevo nessuna precognizione del fatto che per esempio a febbraio si sarebbero già date quest'anno fuoco alle polveri con questa polemica sulla partecipazione di Elena Ferrante. E in realtà il premio è un po' questo, ogni anno è capace di creare una grande attenzione sui libri e sugli autori che concorrono anche attraverso delle polemiche più o meno al calor bianco. Lo ha sempre fatto. In questo libro lei stesso racconta, insomma, che ci sono le famose telefonate fra le candidature del premio Strega e poi la scelta della cinquina. Insomma, per le case editrici è fondamentale partecipare al premio Strega, e prima parlavo di un fattore moltiplicatore, cioè quando si è candidati in cinquina allo Strega, lo si vince addirittura, per quanto vengono moltiplicate le vendite? Questo grazie a uno studio di un economista dell'Università della Calabria lo abbiamo calcolato, il professor Scoppa, ecco, mi piace ricordarne anche il nome di questo studioso. Abbiamo calcolato che le vendite del libro che vince il premio Strega si moltiplicano di 5 volte rispetto a quanto aveva venduto prima dell'assegnazione, quindi un numero piuttosto considerevole. Si capisce quindi perché tutti vogliono partecipare allo Strega, gli editori. Insomma, queste telefonate però ci sono o non ci sono? Raccontiamocelo un po'. Beh, ci sono, naturalmente, le hanno raccontate i giurati negli anni, Nello Aiello piuttosto che Cesare Cases, che ho citato nel libro con una lettera del 1968. Le case editrici fanno campagna elettorale per i libri in concorso. Naturalmente fanno non più che telefonate, quindi poi sta all'amico della domenica scegliere se assecondare quanto viene detto nella telefonata oppure fare di testa propria. Io ho la presunzione di credere che la gran parte dei giurati del premio Strega poi facciano di testa propria. Il libro scritto da Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Bellonci che organizza il premio Strega, si intitola La polveriera, pubblicato da Mondadori. È una lettura che vi consiglio. Gli addetti ai lavori faranno un po' a gara per cercare di capire chi è Tizio, chi è Caio, chi si cela dietro quel nome, dietro quell'altro, ma vi assicuro che è un libro, una lettura interessante per tutti, perché il premio Strega è veramente un pezzo della storia d'Italia, non solo della storia della letteratura italiana, ma proprio anche del costume dell'Italia. Quindi chiunque può essere interessato a questo romanzo. Grazie allora a Stefano Petrocchi, e ovviamente ci aggiorneremo con le prossime novità o polemiche sul premio Strega. Grazie a lei, a presto. E prima di chiudere vi ricordo che da martedì 3 marzo in edicola con Il Sole 24 Ore ci saranno i capolavori della letteratura horror, insomma i classici ma anche i romanzi contemporanei del genere horror thriller. Si parte martedì appunto con L'Esorcista di William Peter Blatty, ogni martedì in edicola con Il Sole 24 Ore. Anche per oggi è tutto, vi ricordo che potete seguirmi su Twitter come Ale Teddina. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.